Una buonasera da parte di Max Macchia per 451 frammenti sonori e futuri rumori anche, includiamolo insomma dentro la famiglia, oltre che 451 intersezioni, quindi insomma qua si sta moltiplicando la genia, la mala genia potremmo dire, e in riproduzione. Questa sera 451 frammenti sonori per l'appunto, ma poi avremo modo anche di sviluppare i futuri rumori, anzi vi invito attraverso il blog e attraverso appunto l'indirizzo mail, se volete mandare i vostri file, oppure un indirizzo anche fisico qua della radio, l'attenzione insomma di 451 frammenti sonori, di mandarci materiale, quindi che può essere sia file audio come i vecchi materiali, che poi tanto vecchi non sono, ben pensarlo, visto anche l'uso del vinile proprio in questi ultimi anni, si può dire, insomma da 3-4 anni la grande esplosione del vinile, ma comunque CDR, quello che volete, insomma anche come dicevo l'altra volta, anche in fiale se volete, troviamo il modo insomma di inserirlo appunto dentro futuri rumori, ovvio insomma dentro quelle che sono le sperimentazioni che più o meno dovreste conoscere, se non le conoscete insomma attraverso il blog avete modo, quindi 451 frammenti sonori.noblogs.org, di risalire a quello che è stato fatto in questi ultimi anni e anche appunto di approcciarsi rispetto alla sperimentazione, perlomeno come si intende da queste parti, se non addirittura anche all'avanguardia per alcuni aspetti, non sempre ovviamente la faccenda dell'avanguardia è faccenda più grossa, più novecentesca, legata a una radicalità che forse insomma adesso non c'è, o se c'è insomma sta da tutt'altre parti, ma la parte delle retroguardie, delle reazioni e delle zozzerie varie, permettetemi insomma così come dire il gergo qualunque, ma ogni tanto insomma un po' di anche come dire populismo a volte serve, perlomeno insomma per creare perlomeno un minimo di disappunto rispetto a quello che corre, a questi segni dei tempi, sign of the time, eh? E Max Macchia presentandovi questo 451, ovvero detriti elettronici, e va un po' a prendere quella che è stata la grande esplosione, o forse un'esplosione magari sotterranea, underground, che però è arrivata veramente fino non soltanto ai nostri giorni, ma tuttora, la deflagrazione dell'industrial, di quei momenti eccezionali, di quel momento, se vogliamo parlare appunto di esplosione, i detriti ci sono stati per tutto il corso di questi anni, visto che se dobbiamo parlare di esplosione industrial, beh, dobbiamo probabilmente risalire alla fine degli anni 70, esplosi poi detriti dentro un primo techno pop, musica che nasceva come devianza, diciamo, legata al pop, proprio per quella elettronica, e dentro buona parte delle wave elettroniche, per non dire della cold wave, del synth punk, per passare insomma buona parte del rumorismo, anche rock non soltanto elettronico, o quel strano ibrido poi tra elettro rock che ha dato anche molto crossover alla fine degli anni 80, con tanto di appunto detrito industrial, anni 90 poi nelle implosioni isolazioniste come in certe esplorazioni panasoniche, ma anche glitch in alcuni, per alcuni aspetti, e poi il nuovo noise americano e non solo, il solito è meraviglioso, non perché è solito male, anzi solito perché è molto bene, è consolidato, ecco, noise giapponese che ancora fa uscire cose incredibili, ma d'altronde è il sol di Levante, foriero di musica eccezionale nelle, nelle sperimentazioni, e dal dopoguerra in poi uno dei, dei punti di riferimento. Non parleremo però del, del Giappone questa sera, facevo una specie di, così, di panoramica su quello che può essere appunto il detrito di cui parleremo questa sera, dei detriti elettronici. E per iniziare, una delle formazioni, uno dei progetti che evidentemente non può tornare indietro per poi spostarsi in avanti verso il futuro addirittura. Chris & Cosey si reinventano per gli ultimi due dischi, oltre tra l'altro alla riedizione, potremmo dire così, dei Throbbing Gristle, poi purtroppo insomma andata un po' così a chiudersi in maniera non pienamente insomma felice, visto che c'è stato un lutto, quello di Sleaze e Peter Christopherson, oltre che un mezzo abbandono già di fatto negli ultimissimi periodi di Throbbing Gristle da parte di Janis Piorridge, o un abbandono che forse poteva rientrare, ma di fatto insomma le cose, il ritorno è stato strepitoso con dischi veramente eccezionali. Chris & Cosey riprendono anche fiato sicuramente dopo essere stati in corsa per tanti anni, avendo insomma creato un suono eccezionale nei primi 80, poi veramente con detriti vari che si sono prolungati nel corso degli anni, anche con loro lavori, Conspiracy Technology Institute, CTI, dischi eccezionali, prodomi poi di molta techno, quella techno fredda europea, e poi nel ritrovarsi nei Throbbing Gristle e appunto come coppia Chris Carter, cose fan tutti, riescono anche a rileggere in un certo qual modo in primi momenti soprattutto quelli assolutamente geniali, appunto in termini di genie che sono state create, tecnoidi, e con Nicky Void dei Factory Floor, quindi con quella freschezza che proviene da una generazione che è cresciuta con le suoni di Chris & Cosey, di Throbbing Gristle e di buona parte della Cold Wave, dell'industrial che si faceva sempre più elettronico, anche astratto in alcuni casi, seppur con delle ritmicità assolutamente inaudite, appunto fondative in termini tecnoidi. E Nicky Void collabora per il secondo disco, appunto Carter Tutti Void, disco eccellente come d'altronde il primo forse è stato anche sorprendente, oltre che un disco di grande valore musicale sperimentale. Quest'ultimo ripercorre un po' quel primo lavoro, ma con esiti assolutamente eccezionali. Nel frattempo mi scuso per le mie cadute di voce, speriamo insomma di non altri tipi di cadute. Sì, insomma, anch'io, come dire, ma malo, non sono soltanto malato musicalmente o così tra virgolette intellettualmente, ma anche insomma di fatto, poi ogni tanto succede anche questo, quindi la mia salute cagionevole probabilmente insomma porterà mancamenti di voci, ma non vi preoccupate, insomma poi torna in modo o nell'altro. Carter Tutti Void, quindi da FX, secondo splendido lavoro appunto per questi tre, per iniziare appunto questi detriti elettronici. E qua sul serio, il detrito da loro stessi creato poi con l'esplosione appunto delle sperimentazioni elettroniche già fatte alla fine degli anni 70, e porta a una ritmicità che si ciba quasi di rifiuti, quasi di una ritmicità che poi potremmo definire insomma assolutamente lo-fi. È una ritmicità che non cerca appunto pulizia, anzi tutt'altro, nasce sporca e sperimenta appunto proprio su la possibilità di elevare un discorso ritmico attraverso appunto l'utilizzo rotto quasi della tecnologia, un minimalismo che è ritmico, che diventa anche compositivo, se vogliamo, se non per risultati musicali. Non stiamo parlando di minimalismo ovviamente alla Monte Young, ma acquisisce insomma quella specie di riduzionismo, quindi in questo senso anche una sorta insomma di ricompattamento quasi di un materiale di scarto che viene insomma trattato in maniera così creativa. Carter, tutti Void da FX per iniziare questi detriti elettronici in compagnia mia, Max Macchia. We'll be right back. Carter, tutti Void per FX, questo disco splendido, uscito in queste ultime settimane, che attesta appunto un po' il discorso che questa sera vogliamo intraprendere qua a 451 frammenti sonori, quello dei detriti che provengono appunto dalla grande esplosione, defragazione di certe materie industrial trattate appunto in maniera esplosiva, di per sé insomma l'ondata, o se vogliamo insomma l'incendiaria, così continuiamo con la formula così combustibile, e di fatto crearono un ambiente sia in termini culturali, anche più generali di linguaggio, decisamente incendiario, con anche tattiche shock legate sia a un immaginario tremendo, sia facendo vedere le facce più bieche del capitalismo, per magari e quelli più politicizzati, ma non solo per quelli, anche altri che avevano diciamo soltanto un'estetica, una patina, facevano vedere insomma attraverso immagini scioccanti legate ad esempio al nazismo, o elementi estremi appunto di una società che comunque è assolutamente decadente. Uno dei video più allucinanti che si possa vedere sicuramente è uno degli Escape, ma non lo consiglio neanche al mio peggior nemico, visto che è veramente quasi inguardabile. Despair, ci sono riuscito per qualche minuto, poi ho mollato il colpo. Insomma, biopsie, faccende insomma legate a interiorità nel vero senso della parola, che lasciano poco spazio, insomma veramente un immaginario volutamente asfittico nel creare appunto paranoia e nel creare momenti di grande disagio, oppure un video che forse per alcuni aspetti invece più visibile, sempre tra virgolette, con questo incendio abnorme che inizia appunto per questa performance di Throbbing Gristle, incredibile. Momenti insomma anche appunto in termini di visività, quasi a saturare un'immagine. Ricordiamo le splendide sperimentazioni anche di Cabaret Voltaire sull'immagine satura, quasi a cercare poi un pixelato che avverrà poi con il digitale pienamente, quindi a saturazione piena, oppure un flusso di immagini che esploderà anche in termini poi di sussunti poi per molti versi ad esempio da MTV, per questo canale di flusso, quindi appunto la televisione di flusso senza più interruzioni. La televisione di una volta invece era piena di interruzioni, anzi volute, si creavano insomma dei compartimenti proprio per dare spazio insomma a momenti diversi televisivi, con appunto le sperimentazioni video di Cabaret Voltaire invece c'è un flusso continuo, potete rintracciarli insomma anche abbastanza facilmente attraverso la rete, poi una riedizione anche di uno splendido film fatto proprio da Cabaret Voltaire come Johnny Yes. Comunque, senza andare ora a trovare il video, che comunque è molto importante per quanto riguarda tutta quella scena e quegli appunto momenti assolutamente incendiari anche in termini appunto visivi, a livello sonoro, e c'è una sperimentazione che va tanto sul rumorismo di marca avanguardistica, quindi età concretismo e sonorità cosmiche che vanno a impattare anche con un cosmo rotto, potremmo dire, con momenti appunto di esplosione cosmica o di addirittura di black hole, di perdita insomma attraverso questi viaggi, una quasi una sorta di cosmicità distopica, e poi una ritmicità che ad esempio abbiamo anche in sottofondo adesso da parte di Nigel Ayers con i suoi Nocturnal Emission. Tra l'altro l'abbiamo trattati anche proprio per Det Ambient, sono anche i creatori di quel fenomeno anch'esso molto sotterraneo sviluppatosi dentro le musiche industrial, legato all'industrial ambient, al dark ambient, la seconda parte degli anni Ottanta, lavori come Nocturnal Emission, con lavori come l'eccezionale Lastmord, Zovet Friends, diventerà a faccenda, insomma, che noi abbiamo voluto chiamare Det Ambient. Bene, Nocturnal Emission nei primi anni Ottanta elaborarono anche in maniera piuttosto sorprendente anche da parte di chi l'aveva seguiti nelle primissime mosse molto cacofoniche, veramente defragazioni rumoristiche o addirittura implosioni, quasi un voler sottrarre il suono fino a trovare un punto quasi di non ritorno, e quindi questo avvicinamento forse al silenzio poi dopo qualche anno, insomma, lo porterà Nigel Ayers e Nocturnal Emission a lavorare appunto sull'ambient, su questa Det Ambient così detta da noi. E negli anni Ottanta, oltre che appunto questi esperimenti rumoristi, fece anche scalpore Nocturnal Emission per dentro, ovviamente, la comunità, chiamiamola così, insomma, lasciatemi passare il termine industrial, e questi esperimenti appunto sui ritmi, ritmicità che poi evidentemente, insomma, parallelamente seguono Chris and Cosey e faccende varie, gli stessi SP Cape poi citati prima, sul lato più funkeggiato e forse meno sporco, i Cabaret Voltaire e Nocturnal Emission creano con l'estrazione di un lavoro che adesso appunto andremo ad ascoltare, e sì, momenti di una dance deviante che lavora appunto sulla ritmicità in maniera ossessiva, sporca, quasi appunto qua a rintracciare una sorta di scoria che possa essere appunto creativa dentro l'esperimento ritmico. Viral Shending è uno dei lavori appunto che è più di riferimento proprio per anche la sua marginalità. Ci sono momenti di Nocturnal Emission anche live molto interessanti nei primi anni Ottanta, dove appunto si sperimenta questo suono lancinante, molto poi prodomo di quello che succederà e di quello che stiamo ascoltando soprattutto in questi ultimi giorni, come materia tecno disastrata, ecco, per tanti aspetti. We'll be right back. There's another. By the left. Click. Mark. Thank you. frammenti ovviamente qua 451 siamo anche piuttosto felici di parlare di frammenti e di quello che appunto è la sperimentazione anche attraverso questi tali frammenti che qua ovviamente sono ritmici e che però rappresentano una ricerca sul mondo del suono rumore e il ritmo, non tanto appunto per le piste da ballo, per quanto si voglia alternative, ma più una ricerca su quello che è la ritmicità, nel senso anche molto tribale, che poi molto industria sarà fondamentale. Se pensiamo che ci sono state anche formazioni che hanno proprio lavorato anche ricalcando proprio con strumentazioni quella tribalità, per poi non parlare anche di tutto quello che è stato l'aspetto legato al neoprimitivismo di molte industrie, scarnificazioni che non vengono dagli anni 90 ma vengono appunto da quel periodo, e tutto quello che è il portato della body art dentro il percorso di Com Transmission, poi di Psyche TV, ma anche della stessa cose fan tutti, e anche qua immaginari legati al corpo, spostati, anche scioccanti e provocatori come molte immagini che deturnano anche quasi la pornografia da parte della cosa di fan tutti, e quindi una serie di situazioni che anche dentro appunto un ritmo che si vuole anche legato appunto alla strutturalità, se non addirittura proprio alla struttura sociale, quindi anche in questo senso l'industrial, termine che poi ricordiamo creato da un pazzo geniale come Monte Cazzazza, industrial music for industrial people era appunto lo slogan creato da Monte Cazzazza, per gioco ma mica tanto, perché poi appunto è diventata una faccenda giocosa, sì, ma anche molto seria per alcuni aspetti, per molti aspetti anzi, tant'è che con detriti appunto elettronici e con tanto insomma come dire sottolineatura positiva rispetto appunto a detriti che vengono da una grande esplosione, detriti che poi a loro volta sono combustibili, quindi possono dare ulteriori esplosioni, magari appunto le danno, magari non così forti, ovvio che i periodi storici insomma hanno momenti di grande appunto rottura o di grande appunto esplosione. Parlando di detriti appunto elettronici che arrivano ai nostri giorni, che però li vogliamo spostare dentro i futuri rumori, e vi rinvio anche appunto a mandarci materiale attraverso appunto il blog, dove trovate appunto i contatti, il modo per farlo, anche semplicemente con dei file. Non ci girate però per favore piattaforme, perché sennò poi diventa insomma un riciclo poi di quello che si fa insomma attraverso i social, vogliamo invece insomma un impatto più diretto rispetto ai vostri lavori. Beh, questa sera proveniente probabilmente da Bologna, da quanto si capisce, il lavoro molto interessante di Ratz Grad and Water Tower, tra l'altro Water Tower non è un riferimento così vago, visto che il progetto di Salvatore Miele si muove dentro la cannibalizzazione degli spazi, così insomma in maniera anche piuttosto brillante si esprime tramite insomma la mail e due appunti appunto però decisamente insomma evocativi, anche descrittivi, poi si esprime in questa maniera anche per appunto questo bel lavoro, lavoro che si nutre appunto di cibi quasi avariati appunto dettati dall'industria, questo grande organismo ancora vivo, forse insomma in apparenza malconcio, ma poi in realtà è nato così, quindi deforme, come dire, si fa anche specie proprio nella sua deformità. Beh, probabilmente le musiche di Ratzgraden, Water Tower, si cibano proprio di queste scorie, quasi a ricreare appunto una sorta di, anche qua, di saturazione, più magari una saturazione orizzontale, delesiana, quasi potremmo dire, anche per questo muoversi, insomma, durante i vari pezzi del lavoro che appunto ci ha inviato in Futuri Rumori, che hanno elementi di implosione cosmica, ma anche di appunto esplosione spaziale in tutti i sensi, o momenti appunto di ritmicità rotta, trovando appunto questi detriti elettronici che questa sera stiamo trattando anche appunto con questo bel progetto, e poi altri momenti invece di così suggestionati da momenti vuoti, quasi svuotati, e qua insomma tutto il discorso anche di quello che è stato e che è tuttora, alcune ambientazioni, alcuni vuoti pieni di molte musiche che attraversano installative degli anni 90 degli anni 0. Un lavoro quindi piuttosto interessante che si muove appunto su varie materie sonore, trattandole in maniera anche piuttosto personale. Andiamo a prendere un pezzo appunto da Ratzgrad, Water Towers, From Beer to Wolf SC, poi magari ascolteremo anche un frammento, un altro frammento che c'è un lavoro ritmico, però con una ritmicità sotterranea. Per quanto riguarda il pezzo invece che ascolteremo dopo, c'è invece una sorta di esplosione qua a questo punto, cosmicheggiante, però insomma anche qua con quel ascolto diretto o indiretto, questo non lo so, e a certe deviazioni, derivazioni forse anche di certa musica trattata così in maniera parallela, in maniera appunto deviante, da parte di Ratzgrad e Water Towers. Ce l'andiamo a sentire, appunto, forse è esattamente il caso.